Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È la parte finale di Mrs. Robinson, una canzone famosa per essere il pezzo più noto della colonna sonora de Il Laureato, film culto del 1967 e trampolino di lancio per Dustin Hoffman, uno dei più grandi attori della sua generazione. Il film e la canzone stessa parlano di un'epoca e di uno spaccato dell'America anni 60, anche se in veste di commedia dal taglio sentimentale e non politico, ma che in qualche modo anticipa i fermenti giovanili di ribellione che esploderanno di lì a pochi mesi nelle grandi contestazioni del 68. Ascoltiamo un impacciato Hoffman incontrare per la prima volta la signora Robinson, impersonata da una magnifica Anne Bancroft. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio? Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh, no, no, signora, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... Santa pazienza, ma se l'immagina i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui, in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea, signora, ma santa pazienza. M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio. Hai paura di me? Oh, no, non è questo il punto. Senta, e se invece facessimo qualcos'altro? Signora Robinson, le piacerebbe andare al cinema? Il film, diretto da Mike Nichols, è amato dai ventenni di allora per la trasgressiva tematica sessuale, l'incomunicabilità fra i giovani e il mondo degli adulti, e soprattutto per l'innovativo uso della musica pop. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mrs. Robinson non è infatti l'unico brano della colonna sonora ad affiancare il film in un percorso di immortalità. April Come She Will e Scarborough Fair non possono ad esempio dirsi da meno, ma è The Sound of Silence, utilizzata integralmente nel corso del film, ad essere ancora oggi considerata una delle più belle e significative canzoni di tutti i tempi. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. La canzone, una struggente ballata folk rock dal testo ricercato e all'apparenza ermetico, aveva già conquistato il primo posto delle classifiche americane nel 1966, ma è grazie all'enorme successo del film in tutto il mondo che raggiunge la definitiva fama internazionale, trascinando con sé nella sua gloriosa scia i due autori e protagonisti della puntata di oggi. Oggi a Destini Incrociati parleremo di come le parole possano diventare poesia in musica e di come la musica, anche quando definita folk o pop, in altre parole popolare, possa rimanere incisa nelle menti e nei cuori di milioni di persone attraverso gli anni e i cambiamenti. Per capirlo, dobbiamo tornare alla fine degli anni 40 a New York, più precisamente nella scuola elementare del sobborgo di Forest Hills, dove un timido bambino ebreo si appresta a vincere le sue paure e ad affrontare il primo palcoscenico della sua vita, in occasione della recita scolastica di fine anno. Il suo nome è Paul Simon. Paul Simon. Mio padre è stato il mio primo idolo. Passavo ore ad ascoltarlo quando dava lezione o ai suoi concerti. Mia mamma invece mi faceva sempre leggere tantissimi libri. Paul Frederick Simon nasce a Newark, New Jersey, nel 1941 e fin da piccolo ha idee molto chiare sul suo futuro. Il padre Louis, un ebreo di origini ungheresi, è infatti un eccellente bassista professionista e il piccolo Paul non perde mai occasione per starlo ad ascoltare mentre dà lezioni in casa o quando lo porta a sentire qualche esibizione. La musica entra immediatamente nella sua vita assieme all'amore per la letteratura, che gli trasmette invece la madre Belle, una maestra elementare appassionata di libri. Un libro, in particolare, colpisce la sua fantasia. Parla di magia, di mondi irreali, ed è pieno di nonsense e giochi di parole. Si tratta di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il romanzo più famoso dello scrittore inglese Lewis Carroll. Così, quando a scuola ne viene proposta la rappresentazione per il saggio di fine anno, il piccolo Simon insiste per avere la parte del suo personaggio preferito, il Bianconiglio. Via, Oreste! Non è che un coniglio col panciotto, è l'orologio. Può fare, può farissimo, è tardi, tardi, tardi. Questa sì che buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore? Ma chi? Non aspettano che me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Paul non è l'unico bambino della scuola ad amare Alice e i suoi personaggi. Alle prove della recita ne incontra uno magro e allampanato con una testa invasa da riccioli biondi. Si chiama Arthur e ha deciso di impersonare lo stregatto. Paul e Arthur, simpaticamente goffi nei loro abiti di scena, fanno bene la loro parte e ricevono gli applausi convinti del piccolo auditorium della scuola. Non saranno gli unici applausi della loro vita. Quei due ragazzini dalla faccia pulita, appartenenti alla buona borghesia ebraica, nati nemmeno un mese, nemmeno un miglio di distanza, entrambi amanti del baseball e con un grande amore a orecchio per la musica, da quel giorno diventano grandi amici. Paul nota che Arthur, che già allora tutti chiamano con il nomignolo Art, è particolarmente intonato. La sua voce è pulita, melodica, angelica. E gli sembra che si intoni perfettamente alla sua aria svagata e a quell'aspetto un po' blasé. Quel bambino è il preciso alter ego dell'adulto che diventerà e che da tutti sarà conosciuto col nome di Art Garfunkel. Art Garfunkel. Sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sunset. Simon e Art, divenuti amici fin dai tempi delle elementari, proseguono insieme gli studi nello stesso liceo nella zona del Queens, dando vita a un sodalizio artistico che li farà conoscere nel mondo come Simon Garfunkel. Ecco come Art racconta quel periodo. Io e Paul siamo cresciuti nelle cucine delle nostre rispettive case. Quando l'ho conosciuto portava la fibbia della cintura su un lato, stile doo-wop, e lo prendevo sempre in giro. Io alto e lui bassetto, ma aveva già una forza di volontà incredibile e suonava da Dio. Abbiamo imparato a cantare insieme imitando gli Everly Brothers. Io ero consapevole di avere una bella voce, ma secondo me il nucleo vero è dato dal virtuosismo di Paul. È quello per me il marchio di Simon Garfunkel. Con uno che suona così bene puoi anche essere stonato come una campana. Nella seconda metà degli anni 50 a New York, come nel resto degli Stati Uniti, il rock and roll è ancora un bambino, nato pochi anni prima dalla centrifuga di generi che fino all'inizio degli anni 50 avevano imperversato negli Stati Uniti. Blues, country, R&B, jazz, gospel, folk possono rivendicarne la paternità almeno parziale. E mentre l'americano medio ascolta la piacevole e pacifica musica dei crooner e dei gruppi vocali alla moda, nasce un nuovo mondo di suoni che avrebbe letteralmente disintegrato quello vecchio di note ordinate. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly sono solo alcuni dei nuovi nomi che fanno da colonna sonora all'adolescenza di Paul Simon, il quale come una spugna li assorbe e li rielabora a modo suo. Mystery Train, my favorite song of rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Good in this get wrecked, it's just quitting balls of fire. I let that love fall, I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Good in this dress, just quitting balls of fire. A destini incrociati, mentre Paul Simon e Art Garfunkel stanno imparando a diventare due veri artisti, il rock and roll sta cambiando letteralmente il mondo e i destini della musica moderna. E anche i due ragazzi del Queens ne saranno fatalmente influenzati. Lentamente, ma inesorabilmente, vengono sovvertite due prassi assodate dell'industria discografica. La chitarra soppianta il piano e i cantanti iniziano a cantare le proprie canzoni. Paul decide di fare entrambe le cose, scrivendo e suonando i suoi pezzi alla chitarra, ma cantandoli assieme all'amico Art. All'inizio si esibiscono occasionalmente alle feste della scuola, cercando di imitare i loro idoli di allora, gli Everly Brothers, e in questo stile, nel 1957, registrano per $15 un provino di Hey School Girl, una delle prime canzoni scritte da Paul. Giovanissimi, ma molto intraprendenti, la fanno arrivare sulla scrivania di Sid Prozen, discografico dell'etichetta Big Records. Prozen, deliziato dalle voci e dalle potenzialità del duo sul mercato dei teen idol, decide di scritturarli. Con i nomi d'arte Tom Graff, dalla mania di Garfunkel per il disegno di grafici e classifiche, e Jerry Landis, cognome di una fidanzatina di Simon, stampati in copertina, Hey School Girl fa il suo esordio in classifica americana, salendo fino al numero 49. Ooh-ba-ba-loo-chi-ba, you're mine. Say ooh-ba-ba-loo-chi-ba, you're mine. Hey, school girl in the second row. The teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. Ma il duo Tom e Jerry, nonostante un buon riscontro di vendite di Hey School Girl e qualche altro tentativo con etichette diverse, non sfonda. Il business discografico in quel momento è saturo di cantanti pop come Paul Anka, Frankie Avalon, Pat Boone. Forse Paul e Artie hanno commesso un errore di valutazione. I sogni dei due ragazzi newyorkesi sembrano finire insieme agli anni della high school di fine anni 50, così fantasticamente raccontati da film come Grease e American Graffiti. Paul e Art si trovano ora di fronte alla scelta universitaria e con essa la loro prima separazione. Paul Simon sceglie il Queen's College per studiare letteratura inglese, mentre Art Garfunkel si iscrive alla Columbia University di Manhattan per studiare architettura. La musica sembra essere stata per loro solo un modo per divertirsi a scuola e guadagnare qualche dollaro tra dischi e piccoli concerti. L'incontro con il loro destino, per ora, è rimandato. If you wanna be my friend, us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know, it happened again. Mentre Art Garfunkel si tuffa nello studio, limitando al minimo la sua attività canora, Paul Simon alterna gli studi di letteratura inglese con l'attività di cantautore in piccoli locali del Greenwich Village, per guadagnarsi da vivere e sbarcare il lunario. Quando poi Paul si laurea, decide che è giunto il momento di vedere il mondo. Caraibi, Sudafrica, Brasile, luoghi che diventeranno decisivi per la sua futura passione per la musica multietnica, di cui diverrà un precursore. Ma questi viaggi e luoghi gli servono soprattutto per capire che è giunto il momento di abbandonare il pop giovanile per dedicarsi a qualcosa che sente più vicino alla sua verve romantica e colta. E con chi, se non con l'amico dei primi tentativi? Ricontatta Art, lo convince a riprovarci. I due sono cresciuti, laureati. Art accetta di ritornare a lavorare con l'amico, a condizione di usare finalmente i loro veri nomi. Paul è d'accordo. Simon & Garfunkel suona bene, ed è con questo nome che si ripresentano nelle coffee house del Greenwich Village, proponendo i nuovi pezzi di Simon, tra i quali Sparrow, Bleecker Street e He Was My Brother. He was my brother, 5 years older than I. He was my brother. Ma il mondo nei 60s non è solo a stelle e strisce. Dall'altra parte dell'Atlantico impazza il beat dei Rolling Stones, dei Beatles, gli Who, generando un clamoroso capovolgimento di fronte, perché fino ad allora, per quello che riguardava il rock e i generi collegati, è stata la musica originaria degli Stati Uniti ad avere il predominio e maggiore influenza sulla musica d'oltreoceano. È la British Invasion. Il 9 febbraio 1964 i Beatles appaiono in televisione nello spettacolo di Ed Sullivan, uno dei più seguiti dai giovani americani. Il giorno dopo la Beatlemania colpisce anche gli States e genera, più ancora che un fenomeno esclusivo del quartetto di Liverpool, un'ossessione di massa per tutto ciò che proviene dall'Inghilterra. Now tonight you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Ed è in Inghilterra, facendo il percorso inverso dei Fab Four, che Paul decide di trasferirsi alla fine del 1964, sparigliando nuovamente le carte del suo destino e di quello di Art. Solo pochi mesi prima, Tom Wilson, boss della Columbia Records, ha prodotto Wednesday Morning 3 AM, il loro album d'esordio, ma il risultato di vendite è stato decisamente modesto. Nel disco, un insieme di novità e tradizione, contributi dylaniani, cover pop e ballate country folk, ed è incisa anche una traccia registrata per sole voci e chitarra, accompagnata da un testo enigmatico. È la versione embrionale di The Sound of Silence. ma il leggendario pezzo, già molto bello, rimane nascosto tra i solchi di un disco senza fortuna e apparentemente dimenticato. Hello, darkness, my old friend. Paul, deluso, decide così di cambiare aria, attratto dalle luci della Swing in London e dalla possibilità di farsi conoscere nei locali folk d'oltreoceano. Art non lo segue. Forse non lo capisce, ma è abituato ai repentini mutamenti di umore e desideri di quell'amico così sensibile ma irrequieto, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, perciò non fa nulla per dissuaderlo. Non c'erano particolari problemi tra noi, ma Paul sentiva che aveva bisogno di crescere, come artista, come uomo. Di lasciare i luoghi dove avevamo vissuto sempre e risalire all'origine di quel fenomeno travolgente che era l'avvento della musica britannica. Ma Paul mi mancava, al punto che a un certo punto l'ho raggiunto in Europa e ci siamo messi a girare, a suonare per le strade. È stato un momento fantastico. Eravamo liberi e non eravamo ancora nessuno. Poi io sono tornato a casa a studiare e lui è tornato in Inghilterra. In Inghilterra, Paul ritrova se stesso. Affina la sua tecnica alla chitarra folk suonando per poche sterline nei locali di tutta l'isola. E si innamora. Lei è Katie Kitty e ha solo 17 anni. Vende i biglietti d'ingresso al Railway Inn Folk Club a Brentwood, dove Paul si esibisce da qualche tempo. Diventano inseparabili e le dedica una delle sue più dolci composizioni, Katie's Song. Ma Paul, lontano da New York ormai da un anno, ne comincia a sentire la nostalgia, specialmente nel periodo natalizio. La notte del 14 dicembre 1965 alla stazione di Liverpool, mentre attende il treno che lo riporta da Katie a Brentwood, affida la sua malinconia alle note e alle parole, scrivendo una delle più belle canzoni di sempre, Homeward Bound. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of a one-night stand, a suitcase and guitar in hand, every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Oh, homeward bound, I wish I won't. Oh, homeward bound. Oh, where my thoughts are stepping. Oh, where my music's playing. Oh, where my love lies waiting. A destini incrociati, mentre un malinconico Paul Simon scrive una delle sue canzoni più belle in attesa del treno alla stazione di Liverpool, Art Garfunkel è rimasto a New York per terminare gli studi di architettura alla Columbia University. È uno studente eccellente, un divoratore di libri che ama passeggiare e frequentare caffè e circoli del Greenwich Village, in quegli anni e per i due decenni successivi il fulcro della scena bohemienne e della cultura alternativa artistica e sociale della East Coast. Andy Warhol, Woody Allen, Lou Reed, Al Pacino sono soltanto alcuni dei personaggi che si possono facilmente incontrare al Village. Ma Art è colpito in particolare da un suo coetaneo, un ragazzotto del Minnesota come lui di origini ebraiche, da poco arrivato in città. Si esibisce in alcuni noti club della zona con una chitarra folk, un'armonica a bocca, e canta con una voce che qualcuno ha definito di sabbia e colla. Ha deciso di farsi chiamare come il poeta che ama, Dylan, e scrive canzoni che vanno dritte alla testa e al cuore. A chi gli chiede come si scriva una canzone come Blowing in the Wind, risponde in questo modo. È semplicemente venuta fuori, è come se fosse uscita da una sorta di magica fonte perpetua di creatività. Bob Dylan, con la sua magica e inesauribile creatività, è senza dubbio l'artista emergente che più ricorda ad Art l'amico Paul e che allo stesso tempo lo spinge a non perdere del tutto il contatto con il mondo della musica. Art infatti si esibisce ancora in piccoli locali e ogni tanto rivede i suoi vecchi amici di un gruppo vocale, ma senza Paul sente che l'ispirazione che l'amico è sempre riuscito a trasmettergli stenta a rinnovarsi. Nell'autunno del 1965 sta definitivamente abbandonando l'idea di diventare un musicista professionista. Con una laurea, una specializzazione in storia dell'arte e un master in matematica, sente di essere pronto per seguire altre strade. In quegli stessi giorni, negli uffici della Columbia Records, qualcuno la pensa diversamente. Tom Wilson, il produttore del primo fallimentare album di Paul e Art, a sua volta ispirato dalla moda folk rock lanciata da Bob Dylan, ha avuto un'idea geniale. Ecco come ricorda quei giorni il produttore afroamericano scomparso nel 1978. quel periodo avevo iniziato a lavorare con Bob Dylan alle nuove sonorità folk rock e andava alla grande, ma l'insuccesso di Wednesday Morning non mi andava giù. Ho riascoltato The Sound of Silence, beh, era un gran pezzo, ma aveva bisogno di più grinta. Paul era in Inghilterra e Art non ne voleva sapere di fare il professionista. Così ho chiamato un paio di ragazzi, Bobby Gregg alla batteria, Bib Bushnell al basso e Al Gorgoni alla chitarra elettrica, e lo abbiamo risuonato, dandogli una spinta più rock. Ai ragazzi non abbiamo detto niente e abbiamo pubblicato il 45 giri. Il risultato è davvero convincente. La Columbia decide all'insaputa degli autori di stampare il 45 giri. In brevissimo tempo la canzone vola al primo posto delle classifiche, vende 1 milione di copie e costringe uno spiazzato Paul Simon al precipitoso ritorno in patria. Fa subito sapere di non essere troppo d'accordo riguardo lo snaturamento del suo pezzo. Racconta di averlo scritto di notte, al buio, in una piccola stanza, e che questo nuovo trattamento elettrico non corrisponde allo stato d'animo del momento della composizione. Ma reagire in questo modo è tipico del carattere di Simon, che comunque è contento di riprovarci e di ritrovare l'amico Art. Wilson, sull'onda del sorprendente successo del singolo, ha infatti convinto entrambi a registrare un nuovo album, il cui titolo, naturalmente, è Sound of Silence. Chitarre elettriche, tastiere, sezione ritmica cambiano il modo di proporsi del duo, che da quel momento segue il solco folk rock tracciato da Dylan, dai Mamas and Papas, dai Birds. Eppure sono i pezzi acustici a regalare le emozioni più grandi e durature. Basta ascoltare l'autobiografica Cathy's Song o l'altrettanto impalpabile April Come She Will per intuire il felice momento creativo vissuto da Paul Simon. Ispirato tanto nei testi quanto nella musica, l'album fa la sua comparsa nei negozi a metà gennaio 66, salendo in un mese fino al numero 21 delle chart statunitensi e rimanendovi per ben 143 settimane. Il successo fulmineo dell'album e del singolo Sound of Silence porta agli onori della classifica persino il riscoperto primo album, trascinandolo in alto fino al numero 30. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Nella seconda metà degli anni 60, il duo Simon & Garfunkel si è imposto all'attenzione del pubblico americano. In pochi mesi diventano i beniamini del pubblico studentesco e dei circoli letterari, mentre intorno a loro lo scenario politico e sociale è in grande fermento. Il Vietnam, Martin Luther King, le lotte per i diritti civili e i movimenti pacifisti sono una potente fonte di ispirazione, che spesso traspare nei testi e negli accordi di Paul e nel suggestivo modo di cantarli di Art, e che sfociano, nel 1966, nella composizione di Paisley, Sage, Rosemary and Thyme, album che contiene molte delle tematiche di quell'intenso periodo storico. Are you going to Scarborough Fair? Anche l'ultimo disco è un successo, e per Simon & Garfunkel è arrivato il momento di una lunga tournée americana tra campus universitari e prestigiose Symphony Hall, e che raggiunge il suo culmine al Monterey Pop Festival nel giugno del 1967, quando si esibiscono di fronte a 50.000 persone. Ma è alla fine di quello stesso anno che il duo riceve una proposta di grande fascino. Il regista Mike Nichols li ha scelti per curare la colonna sonora di un nuovo film che sta dirigendo, Il Laureato. E vuole che The Sound of Silence ne sia la colonna portante. Paul e Art accettano con entusiasmo e si mettono al lavoro. Il risultato appartiene alla storia del cinema e della musica. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Era la voce di Dustin Hoffman che chiede a Dan Bancroft se sta cercando di sedurlo. Ma essere sedotto quell'anno è il pubblico di tutto il mondo, che rimane incantato da un ottimo film e da una colonna sonora che forse ne è la vera protagonista. Mike Nichols vince l'Oscar per la regia e 5 Golden Globe complessivi. Il disco tratto dal film nel febbraio del 1968 è numero uno delle classifiche in America e in quasi tutta Europa. E Mrs. Robinson votata canzone dell'anno. Paul Simon è in un momento di grande vena creativa e pochi mesi dopo è già pronto un nuovo album, Bookends, che sfrutta la scia del successo precedente, conquistando nuovamente le classifiche americane e inglesi. L'album contiene America, una morbida ballad autobiografica che descrive il viaggio fisico e metaforico di una coppia alla ricerca del vero significato dell'America. In un'atmosfera surreale, il 22 ottobre 2001 a New York, David Bowie, seduto in mezzo a un immenso palco, accompagnato da una semplice pianola, canta America a un'enorme platea silenziosa e commossa, al concerto per le vittime dell'11 settembre, trasformandola nel nuovo inno della città. Like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Il successo di Paul Simon e Art Garfunkel alla fine degli anni 60 sembra inarrestabile. Ma nel 1969 il rapporto tra i due amici entra in crisi. Incomprensioni e litigi si susseguono sullo sfondo di avvenimenti quali lo sbarco sulla Luna, Woodstock, l'intensificarsi della guerra in Vietnam, e che come sempre vengono filtrati dalla sensibilità di Simon, il quale li traduce in musica e testi per la registrazione di un nuovo disco. Ma il lavoro, frenato da dissapori, va per le lunghe, complice anche un avvenimento che probabilmente cambia per sempre il loro rapporto di fiducia. Mike Nichols, l'amico regista del laureato, chiede a Garfunkel di far parte del cast di Comma 22, il nuovo film che sta girando in Messico. Promette che lo distrarrà dalla sala di registrazione solo per un paio di mesi, e Art accetta. Ma la promessa non verrà mantenuta. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Anche dopo che il vostro paese sarà stato distrutto. Ma di che diavolo parli? L'America non sarà affatto distrutta. Sei proprio sicuro? Beh, Roma venne distrutta. La Grecia venne distrutta, la Persia venne distrutta. La Spagna venne distrutta. Tutte le grandi nazioni vengono distrutte. Perché la vostra no? Quanto tempo ancora credi che potrà durare il vostro grande paese? Per sempre? Beh, per sempre è tanto tempo. Tantissimo. Per sempre è tanto tempo. Queste le parole che Art Garfunkel, nei panni del capitano Lately, recita in Comma 22 a difesa dell'America. Ancora non lo sa, ma se non per il suo paese, saranno parole profetiche riguardo alla sua amicizia con l'altra metà di Simon & Garfunkel, il duo di musicisti che alla fine degli anni 60 è in testa alle classifiche di mezzo mondo. Paul Simon è rimasto a New York, negli studi della Columbia, in attesa del rientro del partner per completare il nuovo disco. Musica e testi sono già pronti. Mancano gli arrangiamenti e la voce di Art, che però fa sapere dal set messicano, dove il regista dei Laureato l'ha voluto come attore per il suo nuovo film, che ci sono difficoltà e che le riprese si prolungheranno per almeno altri 3 mesi. Paul si sente snobbato, messo da parte, forse geloso per questa nuova carriera hollywoodiana intrapresa dall'amico. E come sempre usa la musica per tradurre il suo stato d'animo. Compone The Only Living Boy in New York, con precisi riferimenti al Messico e all'amico, evocato con il vecchio soprannome Tom, e soprattutto So Long Frank Lloyd Wright, velato rimando alla passione di Art per l'architettura, ma che allude alla fine di un rapporto di amicizia. Garfunkel spiega quel momento difficile con queste parole. In realtà non aspiravo a diventare una star del cinema, anche se tutti lo scrivevano. Ho semplicemente accettato alcune offerte negli intervalli tra un album e un altro. Abbiamo rotto perché volevamo essere noi stessi. È tipico di chi lavora in coppia. Per portare avanti un duo ci vuole disciplina. E arrivati a un certo punto si vuole essere liberi. Le riprese di Comma 22 terminano alla fine dell'estate del 1969 e Art Garfunkel torna finalmente a New York per completare il disco che si intitolerà Bridge Over Troubled Water. quasi un'allusione al momento difficile vissuto dalla coppia di artisti. Ma il ponte gettato sui guai della loro amicizia non sarà mai attraversato. Artie ancora non lo sa, ma Paul ha già comunicato a Clive Davis della Columbia Records la sua intenzione di sciogliere il duo subito dopo l'uscita del disco, che nonostante le 10 milioni di copie vendute e la conquista di numerosi Grammy Awards, sarà l'ultimo dei Simon & Garfunkel. La canzone che intitola il disco, Bridge Over Troubled Water, è cantata da un Garfunkel consapevole che si tratta probabilmente di un canto d'addio, della morte di un bellissimo cigno la cui vita è durata troppo poco. Accompagnato dall'intro di piano che l'ha reso celebre, Art offre la prova vocale più convincente di tutta la sua carriera, in uno struggente crescendo che culmina nel famoso acuto finale da brividi, per quella che ancora oggi è una delle loro canzoni più conosciute al mondo. Ma non basta. Se la coppia dal punto di vista artistico è solida, non lo è più da quello umano. Nel tour che accompagna l'uscita del disco, i due amici non si rivolgono quasi parola e sul palco è raro che si guardino negli occhi. Divergenze caratteriali, diverse ambizioni e aspirazioni di vita diventano a quel punto inconciliabili e i loro destini si separano. La riflessione di Paul Simon sintetizza schiettamente quel difficile momento. Avevo progetti di carriera solista, ma sono anche convinto che non avremmo mai potuto superare le vette di Bridge. Sentivo invece il bisogno di fare un altro genere di musica, senza dover chiedere niente a nessuno. Mi sono aperto verso altre strade e i nostri sentieri si sono ulteriormente divisi. Avevo 13 anni quando decisi di diventare una rockstar, ma solo verso i 40 ho capito che avevo il dono, che sarei stato un artista, e me ne sono andato per il mondo alla ricerca di suoni. In ogni caso, io mi sento essenzialmente uno storyteller, un narratore di storie. Ma la vita continua. Paul e Simon si affacciano negli anni 70 appena trentenni. E se Garfunkel ritiene conclusa la sua parabola musicale, fatta eccezione per alcune incisioni di scarso rilievo, e recita nuovamente per Nichols in Conoscenza carnale al fianco di Jack Nicholson, Simon, ora libero di esprimere tutta la sua complessa personalità, si dedica soltanto alla musica. Scrive, viaggia, fa esperienza di nuove culture sonore nel mondo, in una ricerca di perfezionamento e di evoluzione artistica che darà i suoi frutti negli anni 80, con l'album Graceland. Paul e Art occasionalmente si rivedono, collaborano a qualche progetto, ma 10 anni passano sostanzialmente senza che nulla lasci prevedere la possibilità di una riconciliazione artistica che i fan di tutto il mondo sognano e chiedono a gran voce. Il 19 maggio 1981 il sogno, inaspettato, si avvera. Per capire come, dobbiamo fare un passo indietro, negli uffici di Ron Delsner, circa un anno prima. Il noto promoter newyorkese da qualche tempo ha un'idea in testa: ripetere lo strepitoso successo di Barbara Streisand del 1967, quando riuscì a radunare 150.000 persone a Central Park a New York. È convinto che per raggiungere un risultato del genere ci sia bisogno di un evento speciale. Pensa che riunire Simon e Garfunkel nella loro città dopo 10 anni di separazione lo sia senza alcun dubbio. Nei primi giorni del 1981 decide di telefonare a Paul Simon. Un giorno mi telefona Ron, uno dei più importanti organizzatori di concerti di New York, e mi chiede se ero interessato a tenere un concerto gratuito a Central Park. Gli dissi di sì. Ma subito dopo mi convinsi che non avrebbe funzionato. Mi venne in mente di coinvolgere anche Artie, lo rintracciai in Svizzera. In quel momento stavo pensando di dividere lo spettacolo in due parti, la prima Simon e Garfunkel e la seconda da solo. Poi mi resi conto che stavo andando nella direzione sbagliata. Ma ritrovarsi e andare subito d'accordo dopo tanti anni non è semplice. E i due amici iniziano a discutere quasi subito. Le prove furono pessime. Io e Artie litigammo continuamente. Lui non voleva esibirsi con la mia band. Avrebbe preferito cantare accompagnato soltanto dalla mia chitarra. Gli spiegai che non era possibile, che non potevo suonare la chitarra senza sosta per 2 ore. E poi alcune canzoni, specialmente le ultime da me scritte, avevano bisogno di un'orchestrazione ampia, fiati inclusi. Artie cedette. Ottenni il permesso di avere la band. Ma sul palco i DC scomparvero d'incanto. Ci comportammo proprio come durante gli anni 60, mescolando le nostre voci. Cercai anche di stabilire un contatto con il pubblico, ma è praticamente impossibile parlare a 500.000 persone. Tanta gente può intontirti. 500.000 persone. Un numero incredibile. le previsioni di Delsner vanno oltre ogni aspettativa. Ha sottovalutato il potere che la musica ha acquistato dopo Woodstock e gli altri grandi raduni e non ha considerato che l'America dei primi anni Ottanta già rimpiange le grandi utopie degli anni Sessanta. Ora, in quella dolce sera di maggio, nel cuore del polmone di Manhattan, ciò che vede lo lascia sbalordito. Il parco è letteralmente occupato per ognuno dei suoi 3 chilometri quadrati. Quando Paul e Art salgono sul palco, l'emozione è intensa, così palpabile da riecheggiare attraverso il reticolo di strade per giungere al Queens e a Forest Hills, dove tutto era iniziato 20 anni prima. 500.000 di persone restano con il fiato sospeso quando i due sono finalmente fianco a fianco. Sono le parole di Paul a rompere finalmente il suono del silenzio. È fantastico fare un concerto con i propri vicini di casa. Spero tutti possiate sentirci. Che il suono arrivi bene. Ringraziare il Dipartimento di Polizia e quello dei Vigili del Fuoco. Ed Koch. Il fantastico concerto e le vertiginose vendite del successivo disco live Concert in Central Park non sono però collante sufficiente per far sì che il duo si ricomponga. Da allora tornano a suonare assieme in numerose occasioni, ma senza ripetere mai la magia di quel maggio dell'81. Art torna alla sua vita divisa tra cinema, arte e musica. Paul al suo percorso di grande affabulatore, di cantore di raffinate ballate che hanno accompagnato per 3 decadi la vita di tanti sognatori e utopisti di tutto il mondo. Oggi a 70 anni, questo signore dall'aspetto ordinario, il cappellino da baseball sempre calato in testa, potrebbe essere scambiato per un pensionato qualunque mentre passeggia per le stradine del village. Paul non ha tatuaggi, non fuma e non beve. Il physique du rôle da pop star forse non l'ha mai davvero avuto. Ma prima di diventare uno dei più grandi maestri della canzone, è stato il bianconiglio assieme allo stregatto. Si è fatto chiamare Jerry assieme a Tom. Ed è stato Simon assieme a Garfunkel. When you're weary, feeling small, when tears are in. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.